Soundcheck, il suono della musica di Gegè Telesforo. Pronti per la prova del suono? Eccoci qui, buonasera a tutti voi da Gegè Telesforo, buonasera anche al nostro comunicatore multimediale Francesco Tromba, pimpante e allegro dopo una settimana di Festival di Sanremo. Buonasera anche a te Francesco. Buonasera a tutti. Allora, come stai affrontando queste giornate di festival? Organizzo delle grandi mangiate a casa per guardare il Festival di Sanremo. Con le palette numerate per esprimere il vostro personale giudizio casalingo sugli artisti e le canzoni. Sì, e poi scrivo su Twitter, su Facebook quello che penso. I tuoi commenti. Sì, esatto. Io li ho letti alcuni. Alcuni sono anche pungenti, tipicamente calabresi. Sì, alcuni sono rispecchiano la tua personalità. Allora, caro Francesco, siccome tu sei ormai da qualche settimana il responsabile del repertorio in lingua italiana del nostro soundcheck, mi auguro che tu abbia preparato una puntata interamente dedicata al Festival di Sanremo. No, interamente dedicata. Perché fai così, scusa? Perché già c'è il Festival di Sanremo, quindi basta quello. Sì, ma poi basta anche sintonizzarsi sulle altre radio per sentire tutto il Festival di Sanremo minuto per minuto. Sì, infatti, quindi già lo fanno le altre radio, perché dobbiamo farlo anche noi. Bene, però ti sei preparato psicologicamente ad affrontare la serata finale? Sì, sono pronto. Ecco, noi facciamo proprio in tempo a chiudere il nostro soundcheck e accendere la televisione. Sì, proprio precisi per goderci la finale. Finale, staremo a vedere che cosa succederà. Però devo dirti la verità che gli artisti che noi abbiamo presentato qui al soundcheck, perlomeno i ragazzi, e quindi la band I Cuzzo, ovvero I Cazzo, e il giovane rapper Caligola, ma anche Serena Brancale, hanno fatto il loro dovere. Sì, comunque già da prima, cioè noi ascoltandoli sapevamo comunque che meritavano. E quindi non dite poi che non ve l'avevamo detto. Appunto, va bene. Allora partiamo con il repertorio in italiano selezionato dal nostro Francesco Tromba. Vediamo che cosa ci proponi per oggi. Con cosa vogliamo iniziare? Con Carmen Consoli, una che Sanremo non l'ha mai fatto. Sanremo l'ha fatto da giovane. No, si è presentata, lo ha fatto due volte. Guarda, te lo dico, lo ricordo benissimo. Credo che abbia partecipato al festival nel 95 fra i ragazzi e poi naturalmente ha fatto un Sanremo ormai da veterana dopo la partecipazione all'edizione dei giovani, addirittura presentata da Pippo Baudo, quindi due catanesi sullo stesso palco. È vero, adesso me lo ricordo che c'era Pippo Baudo, questo fatto di essere catanese. E allora che cosa ha combinato Carmen Consoli, perché visto che è stata anche assente dalle scene discografiche per un po' dopo la nascita del figlio Carlo Giuseppe, è tornata dopo Carlo 5 Giuseppe anni. Carlo Giuseppe si chiama il bambino? Sì. Beh, un Carlo Giuseppe dal regno delle due Sicilie, esatto. È proprio un nome da altisonante. Allora che cosa ha combinato Carmen? È tornata, appunto, il nuovo disco si chiama L'abitudine di tornare. E fortunatamente è tornata. Sì, ed è partito anche il nuovo tour. Subito, subito. Proprio appena presentato il disco, già ha cominciato comunque a promuoverlo. Chissà se la casa discografica aveva pensato di presentarla al Festival di Sanremo, no? Perché di solito gli artisti fanno così, quando c'è il ritorno dell'artista sulle scene discografiche, ecco, si fa scopa con il Festival di Sanremo. Evidentemente questa volta hanno deciso di seguire altri canali. Magari. Altri canali, più interessanti probabilmente per un artista come Carmen Consoli. Allora, l'abitudine di tornare è il titolo del singolo, ma anche del nuovo album di questa artista catanese alla quale tutti noi siamo affezionati e che oggi presentiamo qui al soundcheck di Radio 24. Qualche nota sul nuovo album? Sì, vi consiglio di guardare anche il video che è ispirato al mondo di Oz. C'è anche una canzone dedicata al figlio in questo album e appunto viene proprio dopo il periodo di maternità, quindi comunque è una Carmen Consoli diversa. Matura sotto tutti i punti di vista. Sì, esatto. Carmen Consoli con l'abitudine di tornare ad aprire il soundcheck di Radio 24 di oggi. ritorno discografico di Carmen Consoli da Catania con furore, con L'abitudine di tornare, che è anche il titolo di questo singolo presentato qui dal nostro Francesco Tromba, responsabile del repertorio in italiano. E sì, ti avevo chiesto di organizzare una puntata dedicata al Festival di Sanremo, giustamente mi dici che il festival è ancora in atto e non c'è bisogno, perché ormai i singoli imperversano su tutti i canali radiofonici. Hai ragione. E allora di cosa vogliamo parlare, o chi vogliamo ascoltare adesso? Ascoltiamo un altro personaggio che è stato comunque al Festival di Sanremo un po' di anni fa, nel 2006 se non sbaglio, con Noah si è presentato. Si chiama Carlo Fava. Ha deciso di fare un omaggio alla scuola milanese insieme a Folco Orselli e Claudio Sanfilippo. Alla scuola milanese dei cantautori. Dei cantautori, sì, quindi reinterpreta Gabber, Iannacci, ma anche altri cantautori come Lucio Dalla, quindi non necessariamente ed esclusivamente milanesi. Però si parte dai milanesi, perché comunque essendo anche lui milanese è... avendo trovato uno spazio che è quello della Salumeria della Musica, nella quale ogni settimana c'è un appuntamento appunto dedicato a questo show di intrattenimento e anche culturale, in cui appunto si raccontano sia gli aneddoti relativi a questa scuola di cantautori, quindi Gabber, Iannacci, e poi appunto si fanno delle performance live. E quindi bellissimo per me annunciare che Tromba presenta Fava. Insieme fate un binomio clamoroso, potreste fare una tournée. Immagino già il logo del tour: Tromba Fava, o Fava Tromba. Venderemo tantissimo, soprattutto in Toscana, penso. Mannaggia, allora Francesco, va bene, ci presenti Carlo Fava. Che cosa hai scelto? Che cos'è il nuovo album? L'album è del 2014, appunto. E quindi è recente, sì, l'ultimo lavoro. È il frutto di questo progetto dedicato alla scuola milanese. Il brano che ho scelto si chiama Poveri Cantautori, è molto ironico e parte da una musica di Joe Cocker, in realtà. Ah, sì, utilizza il turnaround e il groove di You Can Leave Your Head On, esatto, no? il celebre brano portato al successo dal film 9 settimane e mezzo. E su questo groove ritmico e portante Carlo Fava crea Poveri Cantautori. Sì, molto ironico, il testo è molto simpatico. Bene. Poveri cantautori, così belli di dentro, così brutti di fuori. Sempre meno poeti, sempre più imitatori. E poveri cantautori che per vendere i dischi se li comprano da soli. Soundcheck, il suono della musica. La tua famiglia di questa bottiglia caviglia di pane e vaniglia. Vedi, poi lo devo dire, non dite che non ve l'avevamo detto e che non vi avevamo parlato del talento di Serena Brancale, pugliese doc, che è reduce dal Festival di Sanremo. Niente, la inviteremo prestissimo per farci raccontare tutta l'esperienza vissuta, e qui l'abbiamo apprezzata ancora una volta con questa sua composizione originale intitolata Il gusto delle cose. Brano che si rifà moltissimo al songwriting, lasciami passare il termine in inglese, del nostro Pino Daniele. Eh sì, comunque recupera quella tradizione. Io comunque vi consiglio di andare a cercare su YouTube tutti i video di Serena Brancale, perché comunque magari solo dalla performance di Sanremo non riuscite a farvi un'idea completa di quello che può essere il suo talento. È vero, perché suona la batteria, suona le tastiere, scrive sul pianoforte, canta molto bene, è anche una bella ragazza. Vedo che tu hai anche collezionato tutta una serie di fotografie presenti sul web, hai fatto bene, ti piace. Sì, è anche su Facebook pubblica un sacco di foto, è molto attiva. Molto attiva, eh sì, l'occhio vuole la sua parte. La sua, certo, parte. Bene, da Serena Brancale, allora, continuando con il repertorio in italiano, giusto? No, continuiamo con il repertorio in italiano, però prima volevo raccontarti una notizia importante per la discografia italiana. C'è stato un incremento delle vendite discografiche del 4%. Torniamo a essere tutti ricchi, noi che produciamo dischi. Non proprio. No. È comunque una notizia positiva perché appunto ritorna a crescere il mercato discografico dopo anni di calma. Ma si vendono i CD? Si torna ad acquistare il CD o no? No, principalmente si vende musica digitale. Ecco, vabbè, è già un dato confortante però. Sì, quantomeno non si fanno più i download selvaggi, pirati. Va bene. Allora, una notizia finalmente carina per la discografia italiana, e con cosa vogliamo continuare? Visto che vuoi abbandonare il repertorio in lingua italiana, passiamo a Malika Tirolien. E anche questa ti è piaciuta? Sì, molto. Anche fisicamente? Sì, molto brava vocalmente, musicalmente, molto preparata. Però anche fisicamente, come dicevi tu, venendo anche dal Cirque du Soleil, sa tenere molto bene il palcoscenico. Il palcoscenico. Malika Tirolien, artista canadese, canta infatti sia in inglese che in francese, l'abbiamo conosciuta dopo aver ascoltato Family Dinner, il famoso album premiato ai Grammy Award, realizzato dal bassista Michael League e dei suoi Snarky Puppy, che infatti dopo aver visto Malika Tirolien in uno spettacolo delle Cirque du Soleil l'hanno coinvolta nelle loro operazioni musicali. E oggi Malika Tirolien ci fa ascoltare questo nuovo album, giusto? Sì, che si chiama Sur les voies en soyeux. Non so, non sono un grande anche il tuo francese, vedi, l'ho fatto pronunciare a te il titolo perché io pure sono negato col francese. Sì, anch'io non sono molto bravo. Beh, certo, quando uno non si è mai fidanzato con una francese, se non si pratica la lingua. Bravo, vedi, tu che sei tromba le sai queste cose. Allora, Malika Tirolien, come si intitola il brano? Patience. Patience, questo l'hai detto benino. Sì, questo vuole... è più facile. Sì, perché ci vuole patience. Soundcheck. Yes. Il suono della musica. Sì, caro Francesco, sono aumentate le vendite nel mercato discografico un 4%, ma hai precisato sul digitale, no? Sì, esatto. Sulla vendita degli MP3, ma cresce sempre di più l'interesse non solo nostro, ma anche dei giovani artisti nei confronti di portali di riferimento come Bandcamp e SoundCloud. E infatti su uno di questi due portali, quale Bandcamp? Su Bandcamp, sì. Su Bandcamp hai rintracciato la vocalità di questa giovane interprete chiamata Nadine, con la sua composizione intitolata Crazy, che ci porta indietro nel tempo. Sì, l'ho scoperta per caso in uno di quei pomeriggi nei quali io mi perdo su Bandcamp, passo praticamente quasi tutta la giornata ad ascoltare nuovi artisti. Beh, ne abbiamo scoperti diversi, eh? Sì, lei ha fatto questo nuovo disco che si chiama Hope. Devo dire che ha una vocalità molto sexy. Molto sexy, e il genere sì. È anche originale, no? Ci sì. porta indietro nel tempo, c'è questo pianoforte che dovrebbe essere anche un pianoforte verticale, neanche un pianoforte a coda, insomma lo trovo un progetto molto interessante. Sì, la vocalità ricorda un po' Lady Gaga nel disco di Tony Bennett, un pochettino. A me piace più di Lady Gaga. Sì, il suo timbro è più adatto, più centrato su questo tipo di musica. Hai una fotografia di Nadine? Fammi sì, vedere com'è fisicamente. La foto Nadine. Non è il massimo. Mm, ma è bianca la signorina sì, Nadine? Sì. Ah, invece ha una vocalità nera, abbastanza, un bel timbro. Beh, no, in realtà insomma, no, è in realtà olivastra. Sarà creola. Sì, ecco, sì. Beh, interessante, molto bene. Te le vai proprio scegliendo, eh? In realtà lei non è bellissima, però la sua voce è molto suadente. Non è bellissimo invece Cleveland P. Jones. Però Cleveland P. Jones, anche lui artista contemporaneo, ha una voce infinita e molto particolare che gli ha dato non pochi problemi da ragazzo. E, tra l'altro si è avvicinato alla musica non per merito della mamma, ma per colpa della mamma. Quindi è proprio stato forzato alla forzato musica. Dalla mamma a frequentare la chiesa e il gospel, è lì che ha iniziato a cantare, è lì che ha iniziato a fare le prime esperienze nei musical lì nella sua città, ma Cleveland P. Jones scopre a un certo punto la voce di un cantante jazz albino, te lo ricordi come si chiamava? No, non me lo ricordo. Little Jimmy Scott, purtroppo scomparso diversi anni fa, che aveva una voce esile ma molto particolare e assolutamente riconoscibile. E quindi il nostro Cleveland P. Jones, dopo aver visto il concerto di Little Jimmy Scott, capisce che anche lui può dire la sua. Sì, perché spesso magari uno si sente le prime volte, non si piace, non è convinto nei propri mezzi, e invece lui e devo invece dire ha preso coraggio, ha preso coraggio. Cleveland P. Jones, secondo me, è una delle voci più particolari di oggi, assolutamente riconoscibili, ha un'estensione incredibile. Tra l'altro ha anche collaborato con un altro nostro amico, Ahmed Sirur, se non sbaglio. Con Ahmed Sirur, producer di Brooklyn, disc jockey, ma soprattutto musicista che si diverte a proporre remix e quindi a rivisitare i successi di grandi artisti come Stevie Wonder, Jill Scott, addirittura i Beatles e così via. E infatti è proprio per merito di Ahmed Sirur che noi abbiamo conosciuto l'arte e il talento di Cleveland P. Jones, che ascoltiamo qui al Soundcheck con Sensitive. Soundcheck, il suono della musica. E dopo l'informazione puntualissima arriva anche la seconda parte del Soundcheck di Radio 24 con Gegè Telesforo e il nostro Francesco Tromba. Sì, ti vedo emozionato, come se dovessi affrontare fra pochissimo la finale del campionato del mondo con l'Italia in finale, e invece si tratta soltanto della finale del Festival di Sanremo. Beh sì, ora non esageriamo, perché in caso di finale dell'Italia sarei completamente sudato, starei per morire dall'ansia. Allora, ci hai dato una bella notizia nella prima parte, che gli italiani stanno acquistando materiale discografico, però in formato digitale, e addirittura la discografia da questo punto di vista è cresciuta del 4%. Buona notizia, ma credo ce ne sia un'altra interessante per i nuovi e futuri autori e compositori italiani. Sì, per le nuove leve c'è questa ottima notizia, che la SIAE ha deciso appunto di riservare un'iscrizione gratuita per tutti gli autori che ancora non abbiano compiuto il 30° anno di età. La mia domanda è: perché? È per cercare appunto nuovi talenti da mettere magari per fare cassa. Dovresti approfittare anche tu e iscriverti alla SIAE, non si sa mai, magari ti viene il guizzo creativo, componi una bella melodia fischiettandola, scrivi un bel testo e poi potrai avere successo. E tra l'altro così ti iscrivi gratis alla SIAE e diventi addirittura compositore e autore direttamente. Sì, infatti, nel tuo curriculum potrai scrivere dopo l'iscrizione comunicatore multimediale, laureato in comunicazione, autore e compositore iscritto alla SIAE. Pensa tu. Che gran progresso. Quindi non si fanno neanche più gli esami. Quando io mi iscrissi alla SIAE, sto parlando forse del 79-80, allora si faceva ancora un esamino, io feci quello più semplice, quello da melodista non trascrittore, e mi esaminò, pensate, Claudio Mattone, grande autore di canzoni italiane che salutiamo, che poi conobbi anni dopo personalmente lavorando insieme a Renzo Arbore. Tu sai che hanno scritto tante composizioni importanti, tante canzoni importanti, sigle importanti di programmi televisivi immortali, quelli di Renzo Arbore. E poi si faceva anche l'esame per diventare autore della parte letteraria. Ma che senso aveva fare l'esame se poi pagavi comunque? Ma come che senso aveva? Scusa, se tu vuoi diventare un compositore e un autore, minimo devi fare un esamino del genere, no? Per dimostrare le tue capacità e le tue attitudini. Invece adesso basta non avere 30 anni. Ecco, infatti, è questo. È semplice. Se non hai 30 anni bisogna semplificare. Invece se ne hai 31, nulla. Devi pagare. Ti puoi iscrivere, ma devi pagare. Va bene, torniamo alla musica. Nella prima parte abbiamo parlato un po' del repertorio in italiano, presentando però il nuovo singolo di Carmen Consoli e poi delle novità. E in questa seconda parte invece vogliamo presentarvi proprio materiale freschissimo, appena sfornato. Sì, proprio pronto, appena uscito dai master studio. Bene, esatto, è proprio così. E infatti in persona il mio amico Frank McComb mi ha mandato la nuova produzione. Sei contento? Contentissimo. Io ho conosciuto Frank McComb discograficamente molti anni fa, quando lavorava con i Buckshot Le Funk di Branford Marsalis, band che coniugava la passione e la tradizione del jazz con le sonorità hip hop e R&B, quindi uno dei primi esperimenti, vi sto parlando proprio dei primi anni 90, e poi l'ho conosciuto alcuni anni fa e ci siamo anche esibiti insieme. Insomma, fatto sta che Frank McComb è un cantante infinito, considerato l'erede di Donny Hathaway, si rifà molto a Stevie Wonder, ma naturalmente non si può prescindere poi da certi artisti, e torna discograficamente con un nuovo EP, quindi soltanto 4 brani raccolti sotto il titolo Soulmate. E il primo brano che noi vi vogliamo presentare per Frank McComb si intitola Feeling Some Kind of Way, qui al Soundcheck di Radio 24. Butterflies every time I look into your big brown eyes, I know there's something different going on inside, 'cause it's not like me to feel anxiety. Something's changed, been rearranged. Now deep in my heart, I just don't feel the same. Soundcheck. Il suono della musica. And we got a long way to go. And beat the trials, yeah. Time has proven that nothing can destroy this love. E ha prodotto e suonato quasi tutto lui, Frank McComb, ancora al Soundcheck di Radio 24. Altro estratto da Soulmate, nuovissima produzione per lui, brano intitolato This Love of Ours, qui al Soundcheck di Radio 24, dove arriva un'altra novità, mio caro Francesco. E questa ti piace? Eh sì, le Dizzy mi piace. Le Dizzy ti piace anche fisicamente, sei fatto così? Per te devono sempre coincidere nelle nella vocalità femminile il lato musicale e l'aspetto fisico. Eh sì, la maggior parte delle volte coincidono. Coincidono. E le Dizzy, beh certo è pianotta la ragazza, come una vera soul singer deve essere. Quello è l'elemento in più. Eh sì, perché quando sono magroline resti quasi a bocca aperta, quando hanno quei boccioli dici ma come fa questa così magrolina? Invece con le Dizzy, ecco, la voce è proprio quella che viene fuori da quel corpo. Eh sì, è evidente. Il corpo di le Dizzy, artista nata nel 1972, naturalmente oggi è una piccola star, non posso dire una grande star, perché si diventa star quando vendi milioni di copie, non è così per lei, però discograficamente si è tolta delle soddisfazioni prendendo varie nominations agli ultimi Grammy Award, e tra l'altro anche lei, avendo partecipato in qualche modo a Black Radio, il progetto di Robert Glasper, si è ritrovata in una situazione discografica vantaggiosa anche per la sua carriera. Sì, comunque ha firmato contratti per delle major, quindi non credo proprio che abbia problemi di soldi. No, assolutamente no, anche perché fa tanti concerti, è un'ottima performer e speriamo di vederla dal vivo anche nel nostro paese. Fatto sta che la signorina le Dizzy l'anno scorso ha pubblicato un album intitolato The Truth, e non contenta del piccolo grande successo, dico piccolo grande perché ha avuto un grande successo per quel che riguarda la critica, ma le vendite non sono andate benino. Allora che cosa ha fatto? Chiedimelo. Che cosa ha fatto? Ha pensato di pubblicare nuovamente alcuni brani tratti da The Truth in versione acustica, ovvero unplugged. Che cosa è successo? È successo che, adesso te lo faccio sentire, il brano si intitola The Truth, infatti, e le Dizzy ce lo presenta in chiave acustica. Sentiamo un po'. Ho ribaltato il concept, ma alla fine è come dire, è il suono quello che conta. Soundcheck, il suono della musica. Oggi al Soundcheck stiamo presentando moltissime novità, come quella della vocalist Mariama, Frida Mariama. Adesso firma solo come Mariama, però il nome completo è Frida Mariama, artista svedese ma di colore. Immaginavamo che le svedesi fossero tutte alte, bionde e con gli occhi azzurri. Invece Frida Mariama rappresenta la nuova generazione, è di una bellezza sconvolgente secondo me. E soprattutto non pensavamo che potessero fare soul, magari. Soul music. Sì. Frida Mariama qui al Soundcheck con questo singolo intitolato Help Me Out, ma che anticipa anche sulla scena discografica un altro EP con protagonista una band formidabile, una delle mie preferite, direttamente da Londra, ovvero Native Dancer, ma li presentiamo fra pochissimo. Sì, tra l'altro Mariama ha suonato anche in un'altra band, si chiamano i Personal Life, è una band dell'underground londinese, che questi musicisti prima suonavano con Amy Winehouse, poi hanno deciso appunto di fare questo di progetto, mettersi in proprio, sì, questo progetto solista. No, bravissima, ma a me piacciono perché riescono a coniugare perfettamente i loro studi classici con la musica jazz, la passione per il soul, per l'R&B e l'elettronica, lo fanno benissimo. Esatto, cioè se gli americani stanno riscoprendo il sound vintage, per esempio delle tastiere che ne so, Rod Fender, il Wurlitzer, invece in Inghilterra si spinge ancora molto sulla ricerca elettronica. Sì, secondo me il mix più interessante viene appunto proprio da Londra, perché le sonorità che vengono fuori sono molto interessanti. Ma non solo da Londra, anche da altri paesi come l'Australia e la Nuova Zelanda. E infatti dall'Australia arrivano gli Atus Keyote. Noi li abbiamo presentati nella prima stagione del nostro Soundcheck con il singolo intitolato Nakamarra, con la partecipazione del rapper Q-Tip, singolo che ha portato agli Atus Keyote una nomination ai prossimi Grammy Award come migliore performance R&B, pensa. Eh sì, sono veramente fortissimi secondo me. È una band fortissima, noi come potremmo definirli? Hip hop, funk, underground e cosa? Come si definiscono loro? Loro si definiscono multidimensional, polyrhythmic, gangster shit. Addirittura? Sì. Comunque gli Atus Keyote hanno una nomination ai prossimi Grammy Award e pubblicano un nuovo EP con quattro nuove composizioni scritte dalla bravissima Napalm, vocalist con una bella personalità e dall'aspetto fisico irriverente. Sì, una tipa abbastanza strana e interessante. Da film? Sì, la tipa che vedi in mezzo alla folla e dici... io voglio conoscerla. Oppure è meglio evitarla. Ecco, una delle due cose. Questa doppia visione. Dunque, il brano che vi presentiamo si intitola By Fire, che è anche il brano che dà il titolo a questo EP per Napalm e i suoi Atus Keyote, qui al Soundcheck di Radio 24. Però preparatevi perché torniamo con Native Dancer, e quelli sono fortissimi. Soundcheck, il suono della musica. Questa è già una delle mie band preferite, si chiamano Native Dancer, 5 musicisti londinesi, ovvero 4 musicisti e la voce bellissima di Frida Mariama, che abbiamo ascoltato pochi minuti fa, sempre qui alla prova del suono, ragazzi inglesi che vengono da varie estrazioni musicali con varie esperienze, dal jazz, ma poi ormai con questo EP sicuramente faranno furore e già partecipano ai festival più importanti lì nel Regno Unito. Sì, fra le loro influenze, loro indicano Herbie Hancock, Michael Jackson, ti credo, un po' Michel Ngeiusello, qualsiasi insomma cosa, quelli che piacciono anche a noi. Sì. Allora, Native Dancer, band che sarà protagonista anche di altri soundcheck sicuramente. Magari li contattiamo per intervistare. Bravo, questa è una cosa che deve fare un bravo comunicatore multimediale della nuova generazione calabrese. Allora gli scriverò. Bene, allora vogliamo chiudere però in bellezza. Dopo aver presentato novità assolute inglesi e americane con suono e sound duro e anche molto elettronico, direi di tornare alle origini e quindi passiamo proprio al suono bellissimo di un pianoforte per quattro mani. E come si fa a suonare un pianoforte a quattro mani? Ecco, e come si fa quando si ha a disposizione il talento, la perizia, la bravura e la passione di due fra i più quotati musicisti classici della nuova generazione come Greg Anderson e Elizabeth Joy Rowe, due pianisti classici che appartengono alla scuderia della Steinway & Sons, quindi il pianoforte, la madre di tutti i pianoforti, no? Questi due ragazzi ormai sono un duo di riferimento per il pianismo classico e ve li presento da un concerto realizzato nel 2011 in occasione di questo festival che si tiene ogni anno all'Università del South Carolina, quindi School of Music in Columbia, dove praticamente si selezionano i migliori pianisti della nuova generazione, ma vi sto parlando di talenti che vanno dai 13 fino a massimo 17-18 anni, e quindi i due Anderson e LaRoe erano i guest, gli ospiti d'onore. E quindi a quattro mani ci faranno ascoltare una delle mie composizioni preferite, che è un vocalizzo scritto da Sergei Rachmaninov, compositore russo. Il brano infatti si intitola Vocalis e, per essere precisi, è proprio l'opera 34, numero 14. Conosci questo brano? Sì, Rachmaninov è uno dei miei preferiti in assoluto. E allora, come vogliamo chiudere questa puntata? In pura estetica, con un brano che e allora, riempie le orecchie. Ci rifacciamo le orecchie, sì. E quindi alzate il volume delle vostre radio e ci salutiamo in bellezza, dandovi appuntamento a domani, sempre qui alle 15.30. Alle 15.30 prima parte, seconda parte 19.15. Vedi che sei tutto. A tutti voi buona serata e buona musica con Rachmaninov, Anderson e Joy Rowe, piano 2.